C'è un morto. Una camionetta, non si sa, di polizia carabinieri l'ha investita a metronarci. Dove questo? Piazza... A Limonda. Vicino, sì, esatto, a Limonda. Vicino okay. A Piazza... Quindi investito, voi l'avete visto? Lui è per terra adesso, ancora lì per terra, coperto nel lenzuolo, e c'è un cordone di carabinieri che fa di tutto per non, perché i giornalisti non si avvicinino. Ecco, ma il fatto che sia stato investito, da chi l'avete saputo? Da un ragazzo che stava di fianco a lui. Quindi confermato che è stato investito dalla testimonianza di questa ragazza? Direi di sì. Io ero in piazza Manin, che ero nella zona dei pacifisti, in quel momento stavano facendo delle assemblee tematiche. Tutto molto tranquillo, tutti erano seduti e ascoltavano alcune persone che appunto parlavano con gli altoparlanti, quando ad un certo tratto è arrivato un elicottero a bassa quota. Dopo pochi secondi è arrivata improvvisa una carica da parte della polizia che seguiva gli anarchici che stavano correndo verso le vie antistanti a piazza Manin. C'è stata una carica molto violenta a base di lacrimogeni e di manganellate, compreso il sottoscritto che ha ricevuto dei colpi. Hai preso delle manganellate? Sì, qualcosina in testa e addosso, piccole ferite, ma posso continuare il lavoro. Piccole ferite, sangue? Sangue. E come stai? Sto bene, abbastanza bene, un po' scosso anche perché è stata davvero improvvisa la cosa. Il fatto più negativo è che è andato a colpire tutti indistintamente. Quindi Lilliput, Legambiente, Maritese, quella concentrazione? Esatto. Noi siamo riusciti a stento a raggiungere Piazza Manin, dove c'erano i pacifisti, e lì siamo stati caricati e malmenati dalla polizia. La cosa tremenda è stata che la polizia ha caricato solo noi, cioè ha lasciato agire indisturbati questi teppisti veramente delinquenti organizzati, cioè mi ha veramente fatto impressione quando li ho visti. Vorrei dire che questi personaggi sono arrivati, hanno agito assolutamente indisturbati. La polizia deliberatamente ha caricato la piazza Manin. Loro erano da una parte e noi eravamo in mezzo da un lato, e la polizia è venuta addosso a noi, ci ha pestato, ti giuro, selvaggiamente, una spalla incrinata, la mano rotta e più varie abrasioni, per cui, e non solo io, insomma, ovviamente. Per cui deliberatamente è venuta verso di noi, che avevamo le mani alzate, io infatti ho la mano rotta proprio perché hanno pestato le mani alzate in segno di, insomma, era un po' il segnale che ci eravamo dati per segnare la differenza da questi altri, mentre agli altri non ha fatto assolutamente nulla, cioè non si è neanche avvicinata. Molti non si sono fatti medicare perché la polizia denuncia tutti quelli che vanno in ospedale denunciando delle contusioni, per cui molti non sono andati, io ho dovuto andare ovviamente perché avevo la mano fratturata e quindi non potevo farne a meno, però qua in ospedale sono, diciamo, un po' entrata tramite la compiacenza dei medici, perché loro avrebbero dovuto denunciarmi alla polizia teoricamente. Hanno lanciato qualcosa dentro, sta prendendo fuoco il camioncino dei carabinieri, distrutto, sono fiamme, qualcuno ha buttato dentro qualcosa, l'ha acceso, c'è un fumo nero, si sta alzando vicino alla ferrovia dove era stato bloccato. E adesso questo furgone sta letteralmente bruciando, è una nuvola bianca e nera. Si alza Brignole, che è trapiena di polizia, il corteo si è riorganizzato e sta raggiungendo la piazza. Sì, tu fin dove vedi il corteo? Oh, che cazzo fanno questo? Ma... Pronto? Ma che cazzo fanno? Stanno menando uno su una vespa, uno che non c'entra niente. Passami in onda. Lorenzo, sei in onda, racconta. Allora, c'era un signore in vespa che stava aspettando, l'hanno assalito, l'hanno manganellato e gli hanno sfasciato la vespa. Vuoi raccontarlo in onda, alla radio? Sì. Mi hanno picchiato, senza motivo. Mi stanno spingendo via, non posso fargli l'intervista, giusto? Non posso? Security, vedo. Gliela faccio adesso, si sta spostando. Sì, io vado con lui, ecco. Sta passeggiando la vespa, lo hanno assalito senza nessun motivo, era evidentemente un non manifestante, adesso spingo anche me, sto cercando di fare un'intervista, sono un giornalista, lo vede? Vabbè, va bene, mi è arrivata pure a me, mi hanno spinto nella galleria piena di fumo, quindi vi saluto, anche perché tra poco comincerò a non respirare più, a presto, più tardi. Ci spostiamo con Cristina Artoni nella piazza che era occupata dai pacifisti e dove si sono visti arrivare anche gli anarchici che arrivavano, insomma, da un giro della città. Allora, qui la situazione è di attesa in realtà, anche un po' di psicosi, vorrei dire, nel senso che i pacifisti, li sentite in sottofondo, rimangono seduti a continuare la propria disobbedienza civile assolutamente pacifica. Per un buon 20 minuti si è atteso l'arrivo di questi gruppi piuttosto violenti che avrebbero creato dei grossi problemi in Piazza Manin, e adesso ecco stanno arrivando, pare che ci sono nuove voci, la polizia si sta schierando di nuovo, maschere antigas, scudi, stanno salendo sulle camionette e in questo istante i pacifisti si stanno alzando e sui loro volti vedo la paura, perché c'è gente che è arrivata da Piazza Manin e ha spiegato la situazione, era molto difficile perché hanno raccontato di aver preso botte da parte degli anarchici e dall'altra parte dalla polizia, e vediamo arrivare in lontananza gruppi di non so qua dirvi, perché in discesa potrebbero essere 200 come 300 come 500 di persone, hanno il volto coperto, la polizia è schierata e ha già preparato i lacrimogeni.